pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ha un angioma cutaneo, una boglia a macchia di vino sul torace. Era questo che Kemi cercava di dirmi. Possiamo ricavare il DNA dai suoi vestiti, ma non abbiamo niente con cui confrontarlo. Le sue impronte sono piene di callosità, lasciano solo sbavature come quelle sul coltello rotto. Credo che abbia cercato di uccidersi. Sara, rilassati. Frost non può muoversi da lì. Voglio inchiodare quel bastardo e non voglio che pensi neanche per un istante che la farà franca. D'accordo, un passo alla volta. Frost puzzava d'alcol quando è arrivato al pronto soccorso. Il suo tasso alcolemico era di 0.34. Solo un alcolizzato può restare funzionale a quei livelli. E sai che penso? Che si sia scolato il vino sulla scena direttamente dalla bottiglia. Quindi dovrebbe esserci il suo DNA. Si diceva comunemente che nel cuore di ogni italiano batteva in realtà la vocazione di commissario tecnico. Tutti eravamo bravissimi a dare il nostro giudizio, a dare consigli, a fare scenari riguardo alle partite di calcio. Negli ultimi anni devo dire che nel nostro paese c'è una interessante deriva verso una nuova attitudine nascosta e segreta degli italiani, quella di essere tutti dei medici legali o degli esperti della polizia scientifica. Devo dire che la televisione in questo ci dà un importante supporto, uno stimolo notevole. Avete sentito una scena di CSI, la scena la polizia scientifica di Las Vegas, che ci ha insegnato come esattamente si può osservare da alcuni particolari che appaiono del tutto indifferenti all'occhio del profano, quelle che sono le tracce della disattenzione sul luogo del delitto da parte di un assassino: il pelo abbandonato, la traccia di liquido organico, l'oggetto e la probabile arma del crimine. Sono tutte meravigliosi indizi che permettono di fare degli interessanti e trascinatori giochetti in famiglia, in cui tutti possono dire la loro e tutti possono preventivamente stabilire chi possa essere mai stato l'autore di quel crimine. Beh, questa mattina devo dire che leggo sulla stampa di Torino una interessante dichiarazione da parte del comandante di RIS di Parma, una persona che in realtà questo mestiere lo fa realmente, lo fa come vocazione della sua esistenza, che è il colonnello Luciano Garofalo, che guida dal 95 RIS, ha anche scritto un libro sulla sua attività, I delitti imperfetti, che dice che il vero problema è che tutte le serie televisive che prospettano delle possibilità assolutamente irreali semplificano quelli che sono gli aspetti problematici del suo lavoro. Sembra che arrivano sulla scena del crimine, si mettono queste tute bianche, hanno delle attrezzature fantascientifiche, risolvono facilmente tutti i problemi. Ma in realtà si lamenta il colonnello Garofano che non è esattamente così. L'Italia è molto in ritardo nell'uso della prova scientifica e chiede soprattutto dei protocolli per proteggere la scena del crimine durante i primi interventi. Insomma, la televisione arriverebbe a condizionare anche quelle che sono poi le realtà delittuose, che diventano degli episodi assolutamente fantastici di fiction da puntate televisiva, quanto dei grandi delitti di questi ultimi anni abbiamo goduto in televisione e quanto in realtà questo è giovato veramente a chi si occupa in maniera concreta di tentare di risolvere questi delitti. Conferma che Mullins ha fatto sesso con Emily e Lauren. Se è l'assassino, perché Becca non aveva tracce di sperma? Forse quando è arrivato a lei non era più in grado di eiaculare. Ho eseguito il riscontro materiale tra la punta rotta estratta da Becca e il coltello recuperato all'esterno del bar. È lo stesso usato per pugnalare Marlon Frost? Ancora non lo sappiamo. Sara è in ospedale, porterà un campione di DNA per eseguire un confronto. Chiunque abbia aggredito Frost ha ucciso le ragazze. C'erano impronte sul coltello? Senza dettagli delle creste. Stesse sbavature trovate sulla bottiglia e nelle stanze da letto. Delle impronte sbavate non possono accusare Mullins. Non capisco, pugnala quel tale e poi rientra nel bar. Tutte le prove trovate nella casa indicano che l'assassino non era pratico del posto. E per sua stessa ammissione Mullins è stato in quella casa soltanto un paio di volte. Ma forse è così che è entrato in contatto con Beck. 800240024, mi rendo conto che questa mattina non vi viene richiesta una tecnica capacità di risolvere i crimini, ma una punto di vista rispetto a questa doppia lettura della realtà. Una realtà delittuosa, una realtà che comunque entra come cronaca quotidiana nelle nostre case, che è infarcita giustamente, io sono per una informazione ampia e dettagliata di qualsiasi episodio di cronaca e di accadimento, senza nessun filtro, senza nessuna censura, nelle nostre case, e una lettura televisiva, ma anche non per gettare sempre, ahimè, l'onta sulla televisione, anche nei giornali ci sono interessantissime infografiche in cui in ogni dettaglio vengono descritti i luoghi del delitto, le scene del delitto, i cadaveri per terra, le ipotesi sull'arma del delitto, l'infinità di supposizioni su quelle che sono le tracce lasciate sul delitto. Beh, sono elementi che appartengono alla letteratura fantastica, al giallo, al romanzo noir, ma allo stesso tempo appartengono alla realtà che tocchiamo tutti i giorni. Quando questi due elementi, l'elemento concreto dell'accadimento reale e l'elemento fantastico e immaginifico del racconto di ciò che accade, molte volte infarcito anche da fantasiose eruzioni, vanno a collimare nello stesso luogo di fascinatorio racconto della realtà che la televisione, cosa accade? Accade questo. Voglio dire, se il primo corpo è stato attinto da 12 coltellate, comunque ci vuole un po' di tempo per poter eliminare il primo, per certo, poter sgozzare il secondo, per poter arrivare al terzo, il quarto, il quinto. Tutto questo a me risulta un po' difficile che possa essere attribuito a una persona sola. Non era necessario che anche la signora partecipasse, diciamo, attivamente a pugnalare le vittime, no, ma io lo dico in astratto, ma che le tenesse indipendentemente dal fatto se siano stati questi o meno. Intanto bisogna vedere il tipo di lesioni. Questo cosa ci astrae dal fatto che in realtà in televisione, in dei programmi di informazione giornalistica, si tratti di eventi che realmente hanno interessato il corpo, la vita, l'esistenza di esseri umani, quando il linguaggio è lo stesso, è il medesimo della fiction, quando nello stesso luogo si celebrano in realtà due episodi di cui perdiamo i confini della realtà. È vero quello che accade nello studio del talk show televisivo in cui si parla del delitto di Erba, oppure è vero ciò che accade nel il divertentissimo e fantascientifico laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas? Solo il bambino è stato sgozzato e basta, perché le donne in realtà hanno avuto dei colpi in testa, per cui un'ipotesi potrebbe essere che abbia partecipato, però qua veramente facciamo per adesso un po' di supposizioni. Scusa, ma non c'è stata non è stata trovata una traccia di sangue? Voi direte la mattina, alle 10 di mattina ci fai sentire queste cose orribili, ma sono cose che comunque hanno infarcito i palinsesti della televisione a tutte le ore, dalla mattina alla sera, al pomeriggio, ogni programma di intrattenimento, ogni programma giornalistico, ogni cronaca, ogni fantastica resumazione di fatti del giorno si è comunque agevolata moltissimo di un grande interesse da parte del pubblico nel trattare questa materia in questa maniera, con un'estrema crudezza che era giustificata dal fatto che si trattasse di cronaca. Ma allo stesso tempo, ad esempio, uno dei canali satellitari in Italia di maggior successo è appunto Fox Crime. È un canale dedicato a tutta la narrativa romanzesca, alla fiction, al racconto, alla documentaristica sul delitto. Quindi il delitto è fortemente presente come elemento di attenzione, ma nei suoi particolari, nelle sue fattispecie più per addetti ai lavori. Quindi sembra stranissimo e singolare che il grande spettacolo dell'intrattenimento domestico e allo stesso tempo la grande e cruda realtà della cronaca coincidano nello stesso linguaggio. Beh, quando accade questo, in realtà, forse probabilmente, come dice giustamente il comandante Garofano, occorre rifare il punto su ciò che è reale e su ciò che è fantascientifico. E proprio per questo questa mattina ho in mano un volume che ho sfogliato, devo dire, con grande attenzione, ma anche con grande riluttanza, perché è infarcito di immagini quanto mai realistiche del luogo del delitto. Il titolo del libro è La gestione della scena del crimine, edizione Atena, è scritto da Marco Pellacani, Patrizia Ziccardi, Fabrizio Luppi e Fulvio Cani. Sono quattro persone che in realtà per mestiere si occupano di gestire la scena del crimine. La scena del crimine è quel luogo fantastico in cui vediamo a volte un cadavere a terra circondato dal gessetto, vediamo tracce di sangue, vediamo luoghi mobili spostati, suppellettili rotte, e inizia quella sorta di rituale televisivo in cui entrano e escono persone con la tuta bianca, entrano e escono cadaveri dentro un sacchetto di plastica e si assembrano i giornalisti fuori della porta e accade qualcosa. Cosa accade? Ce lo dice il professor Gianmarco Cifaldi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. È un criminologo, curatore di questo volume, appunto La gestione della scena del crimine. Lei trova innanzitutto che sia un po' azzardata la nostra ipotesi che si assomiglino un po' troppo i linguaggi della cronaca dei delitti e della fiction dei delitti? Questo è, come dice appunto il comandante Garofano, un problema per voi che poi ve ne occupate realmente? Non è un problema, perché poi l'informazione e la comunicazione è sempre importante. Posso raccontare un aneddoto simpatico proprio sulla fiction, all'indomani della fiction? Visto che parliamo di sbudellati, racconti pure simpaticamente, sì. No, succede all'indomani dell'uscita di tutti questi canali tematici in America, a New York ogni poliziotto si improvvisa investigatore, detective a alti livelli e porta ogni frammento di reperto in una scena del crimine alla scientifica, da quello più delittuoso a quello meno delittuoso. A un certo punto i laboratori di New York si sono intasati talmente tanto che prima un referto veniva processato in 3 giorni, dopo ci volevano 2 mesi. A quel punto, in quanto poi la scientifica, anche i laboratori sono privati in America, aveva un costo troppo alto per sostenere tutto questo mole di lavoro. E quindi il sindaco ha dovuto fare un'ordinanza di portare solo e esclusivamente i reperti che avessero come l'omicidio. Questo che significa? Che anche lì la percezione sociale che viene determinato dopo l'uscita di questi film tematici, queste fiction, Law and Order e quant'altro, hanno determinato anche negli stessi agenti di polizia una maggior presa di azione di posizione per determinare alcuni, risolvere alcuni delitti. Quindi la fiction televisiva dà dei modelli talmente intransigenti e talmente a volte anche irreali di operatori sulla scena del crimine che gli operatori stessi ne sono in parte condizionati. Beh, guardi, c'è una contaminazione a riguardo, ma succede anche in Italia, se lei ci fa caso, su tanti aspetti. In America, ovviamente, perché vengono prodotti lì e poi vengono trasferiti. Ma le faccio un esempio, professore. Da un po' di tempo a questa parte, quando si vedono scene post-operatorie, escono dalla camera chirurgica medici e chirurghi con delle bandane meravigliose che non ho mai visto sulla faccia della terra. Perché? Perché sono fortemente ispirati dall'immaginario abbigliamento dei tanti medici protagonisti delle fiction. Quindi hanno tutte queste bandane coloratissime, divertenti, e hanno tutte delle aree che si vede che c'è una sorta di dottor House o medico di appunto di pronto soccorso americano che batte nel loro cuore. Anche se voglio sfatare una cosa, con tutto, io sono spesso in America e le dico, quello che si vede non è quello che è. E devo dire che poi sì, abbiamo alcuni momenti noi in Italia che potremmo superare, però la nostra scientifica in generale non è così malvagia. Non a caso stiamo portando avanti all'interno di un, adesso non posso anticipare troppo, però proprio all'indomani di questa uscita di questo nostro libro, un laboratorio per perfezionare una metodica investigativa sulla scena del crimine, protocollandola con le ISO 9001, cioè praticamente applicare quella qualità processuale di metodi, di procedure all'interno della scena del crimine. Adesso entreremo con lei poi nello specifico di alcuni dei delitti più noti, dove molte volte si legge improvvisamente sulla traccia della scarpa da ginnastica del delitto di Perugia, si apre una questione sul martello, sul mazzuolo, sullo zoccolo della mamma di Cogna, un'altra questione. Poi molte volte, sa, noi che siamo vediamo tutto questo come un grande feuilleton, ci sentiamo in dovere, in diritto di dire ma perché hanno sbagliato, perché non si ha mai certezza su questo. Ma sentiamo prima Mauro, che è un ascoltatore che ci chiama perché anche lui ha un'esperienza personale di gestione della scena del crimine. Mauro. No, buongiorno, io chiamo dalla provincia di Viterbo, complimenti per la trasmissione. Io sono stato molto in America, ho studiato anche come pilota e diciamo che ho visto, capitato, ahimè, in delle situazioni un po' rigide, che comunque loro sterilizzano completamente anche interi quartieri quando succede qualcosa del genere, per cui i giornalisti possono avvicinarsi oppure no? Beh, si avvicinano ma rimangono sempre nei margini, e poi dopo devono essere autorizzati. Lì veramente sono molto rigidi su quello che fanno, a differenza di qua, in Italia c'è molto da lavorare, molto da investire secondo me. E comunque, ecco, ritornando anche... Beh, io ricordo, guardi, una meravigliosa serata televisiva in cui Anna La Rosa è stata per prima nel covo di Provenzano appena preso. Fu una cosa bellissima. Da una parte c'erano gli operatori della scientifica con le tute bianche che prendevano i reperti, dall'altra parte il giornalista che girava e mostrava nei minimi particolari ciò che si trovava dentro le pentole, quello che era il letto. Quello che sia così pulito, no? Non che si arriva alla finanza, arrivano i carabinieri. I carabinieri sì, però voglio dire, arrivano i pompieri, arrivano tutti, no? E inquinano tutto. Cioè, non è possibile questo. E penso che sia un po' quello che vogliono dire i nostri ospiti, che occorre stabilire un protocollo per gestire la scena del crimine, che per prima devono arrivare quelli che hanno maggiori strumenti, maggiori mezzi per capire esattamente come preservare le tracce per poi trovare i colpevoli di quel crimine. Così descrive l'uccisione del piccolo Youssef. Anche quando sono andato a uccidere il bambino, se mi dice cosa ho fatto il bambino, mi posso dire ho dato una coltellata, però non l'ho picchiato. Non è come dicono che gli ho spaccato la testa in due, che gli ho tagliato via la testa, non è vero, ho dato solamente... Questa è la prima confessione di Rosa Bazzi, poi ritrattata e via dicendo. Noi, professore, ci dobbiamo lasciare un istante perché dobbiamo dare la linea alle informazioni dalla borsa, però solo in una battuta, come mai oggi che sembra di avere un'infinità di elementi, dalle intercettazioni, dalla prova televisiva, dalle riprese, alle confessioni poi registrate, dagli strumenti sofisticatissimi di rilevamento, ancora siamo preda di una interminabile fiction sui delitti più importanti che hanno attraversato il paese in questi ultimi anni, in cui non si riesce a definire poi con certezza chi sia il colpevole? Beh, secondo me innanzitutto bisogna anche aggiornare, noi abbiamo aggiornato attentamente il titolo quinto della Costituzione con l'articolo 111, quello cosiddetto denominato giusto processo. Lì è il primo momento di trasformazione del nostro sistema, anche inquisitorio e soprattutto difensivo. Mancano ancora, secondo me, alcune azioni dal punto di vista giuridico. E come diceva giustamente l'ascoltatore, la persona che è intervenuta prima, sì, e noi siamo un po' deficitari nell'inquinamento, abbiamo molti problemi nella scena del crimine, perché abbiamo una serie di attori che entrano nella scena del crimine non preparati a tal fine. Non a caso stiamo facendo questa azione, comunque ne parliamo dopo eventualmente. Ecco, benissimo, mi sembra che il punto sia importante, fondamentale, coincide con quella che è la nostra premessa. Quando in Italia accade un crimine che si prevede, si immagina comunque avrà una grossa rilevanza perché è un crimine importante, arrivano talmente tante persone e non nell'ordine in cui dovrebbero arrivare secondo un protocollo preciso per riuscire il più possibile ad avvicinarsi alla pista che identifica l'autore di quel crimine. Chiamate all'824-0024 per vedere quella che è il vostro livello di consapevolezza sulla scena del crimine, ma il crimine naturalmente non è mai quello reale, quello concreto, quello che ha lasciato tracce e scie di sangue umano sull'asfalto, sul pavimento di un appartamento, ma è quello che racconta la televisione, quello che raccontano i giornali, e perde la realtà, quel suo sapore realistico, e comincia a entrare in una zona limacciosa in cui non sappiamo esattamente quali siano i confini. Ma ci sta dicendo il nostro ospite, che è uno degli autori del libro La gestione della scena del crimine, che in realtà quello che accade per questa improvvisa e meravigliosa attenzione ai delitti che accade nel nostro paese, ma di riflesso perché accade ormai in tutto il mondo laddove ci sia un televisore che racconta la realtà, crea alcuni problemi, perché sulla scena del crimine non arrivano nell'ordine in cui dovrebbero arrivare le persone che si occupano di questo crimine, e molte volte i primi ad arrivare sono proprio quelli con le telecamere. Nuovi importanti tasselli si aggiungono nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nella sua casa di Perugia nella notte fra il 1 e il 2 novembre 2007. Poche immagini sgranate in un video diffuso in esclusiva. Immagini riprese dalla telecamera di un parcheggio poco distante dalla casa del delitto. Sono le 20:53 del 1 novembre, si vede una figura scendere da una macchina. È Metz che rientra a casa, la stessa casa in cui poche ore dopo verrà assassinata ancora un uomo. Per gli inquirenti si tratta di Rudy Guédé, che indossa lo stesso giubbotto che aveva quando l'hanno arrestato. Ghedè ha sempre detto... Il professor Gianmarco Cifaldi, criminologo, che ha curato questo libro, insieme ad altre persone, La gestione della scena del crimine, edizioni Atena. Abbiamo citato uno degli esempi, uno dei delitti di cui si sta parlando, perché c'è proprio il processo in questi giorni, che è il delitto di Perugia. Anche in questo caso noi siamo bravissimi, sappiamo tutto, sulle tracce organiche legate all'atto consumato, sul coltello, sulle tracce di sangue, su quanto sono state pulite, ma addirittura sulle immagini che sono state riprese di persone che entrano e escono da questa casa. Eppure anche perché in questo caso, come in altri casi, il caso di Cogni, anche se si è ormai arrivati a una sentenza quasi definitiva, è molto legato da grandi dubbi. Ancora esiste il partito del mestolo, il partito dello zoccolo. Ecco, in questo cos'è che non ha funzionato, professore? Guardi, innanzitutto, come le dicevo prima, il problema delle procedure da applicare è importante, perché non si può arrivare a una giusta verità senza prepararla questa verità. Noi stiamo creando con l'associazione ASAC proprio una formazione mirata soprattutto ai primi operatori che entrano nella scena del crimine, cioè i sanitari, perché in qualsiasi evento delittuoso i primi a intervenire sono l'ambulanza, il 118, con tutti lo staff, i paramedici e il medico. Quindi il disastro potrebbe accadere nei primi 10 minuti, i primi che arrivano, se non sanno come muoversi, creano comunque delle situazioni in cui è difficile poi ritrovare il filo che voi cercate. Certo, perché non si cristallizza la scena del crimine cosiddetta, perché ovviamente, giustamente, i sanitari entrano e cercano di portare aiuto a chi sta in condizioni disperate, se vengono chiamati. Proprio questo momento, che è il momento decisivo per poi arrivare all'evento che ha preceduto l'aggressione. Molte volte, legge sul libro, noi abbiamo volte messo come un'impronta di un sanitario, un'impronta oppure uno spostare la posizione del corpo e quant'altro determina poi una difficile rielaborazione di quello che è successo precedentemente. Non a caso proprio il nostro sforzo, insieme con gli altri operatori della scientifica, di mettere a punto quelle procedure che dicevo prima, determinanti per arrivare a una giusta verità. Certo, questo complica molto le vicende, perché in realtà, se non ho capito male, occorrebbe fare una sorta di formazione specializzata a medici e paramedici che normalmente fanno un'azione di pronto soccorso, che vanno ovunque a prendere persone in stato di necessità, ma quando si recano in un posto dovrebbero avere già la cognizione di capire che lì si è consumato un delitto e non magari un incidente domestico. In effetti è questo, noi stiamo proprio preparando sia come università, io insegno all'Università Gabriele D'Annunzio, non a caso abbiamo creato 3 corsi di formazione di scienze criminologiche, proprio per aiutare, e sono poi di solito sono tutti gli operatori del settore, polizia, guardia di finanza, carabinieri, che intervengono nei nostri corsi, proprio per avere quel know-how a disposizione che la tecnologia ci permette di avere e noi di comunicare come funzione istituzionale. Vediamo di ricostruire una vicenda da come ne abbiamo avute tutti cognizione attraverso le cronache televisive dei giornali. La prima telefonata di Alberto Stasi da Garlasco al 118, quando entra a casa della fidanzata e la vede morta. Pronto? Sì, stavo in ambulanza, via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trova subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? Credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Va bene, adesso arriva. Le sembra il civico 29? Comunque non vi ha sentito uscire, sicuramente trovo anche qui. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso ti dico cosa è successo. Va bene, adesso comunichiamo anche noi con i carabinieri, intanto mando a vedere un'ambulanza. Marco Pellecani è infermiere del 118, anche lui coautore del libro La gestione della scena del crimine. Signor Pellecani, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, a lei quante volte è accaduto di intervenire a seguito di telefonate come queste, qualcuno dice c'è stato un delitto, c'è stato un omicidio, c'è stato qualcosa di strano? Molte volte è successo, ma molte volte succede che magari non è così esplicito già la chiamata, perché qui parlava di molto sangue, eccetera. Però sì, stava già andando dai carabinieri Stasi quando ha fatto questa telefonata, quindi aveva già chiaro quello che era accaduto. Altre volte può essere un intervento semplice, invece arriviamo sul posto e ci accorgiamo che è successo qualcosa di strano. Quindi, ecco, ma voi che strumenti avete, voi operatori del 118, per definire che lì c'è una scena tale per cui occorre chiamare altre persone, non è semplicemente una stufa che esplosa, qualcuno che è cascato, un incidente, non dico banale, ma non legato a un'azione delittuosa? Beh, ci sono tutta una serie di segnali, come l'abbondante presenza di sangue, confusione nell'appartamento, testimonianze dei vicini che non combaciano, diciamo, con la dinamica dell'evento. Quindi già voi in qualche maniera fate un inizio di attività investigativa o di ricognizione investigativa su questo luogo? Beh, certo, perché il nostro primo scopo è sempre quello della sicurezza, quindi noi dobbiamo vedere se la scena è sicura e quindi possiamo entrare sulla scena. Quindi ecco, ma chi chiamano prima? Carabinieri, forze dell'ordine o ambulanza? Chi arriva prima sulla scena del delitto? Beh, se il paziente è ancora vivo, in genere arriva sempre prima l'ambulanza. Anche in quegli eventi dove è stato commesso un crimine, e questo non dovrebbe succedere, perché se la scena non è sicura, deve essere messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. Come me, mi è successo anche personalmente una scena di un omicidio, che le forze dell'ordine purtroppo sono arrivate dopo 18 minuti, che noi eravamo già sul posto ad operare una scena che poi è diventata insicura, perché l'aggressore mi è passato di fianco con un coltello a circa mezzo metro, quindi... Ah, quindi siete arrivati e c'era ancora, l'autore del crimine era ancora lì? Sì, era ancora lì, ci avevano detto che si era allontanato, poi è ricomparso all'improvviso. Col coltello in mano. Nulla vietava che un sanitario si potesse essere ferito, diciamo, da questo soggetto. Ecco, ma fa parte dei vostri compiti anche preservare la scena del crimine, o il vostro compito primario è di soccorrere la vittima e non dovete poi porvi altri problemi? Sì, certo, il compito primario è quello di soccorrere la vittima, però si può fare cercando di non contaminare la scena più di tanto. Ma è vero, qualcuno mi ha parlato di una telecamera che potreste avere voi in fronte come degli speleologi per riprendere tutto quello che vedete? Esatto, questo è quello che ci ha chiesto la polizia scientifica, è un ottimo strumento perché si hanno le mani libere e quindi si riesce a riprendere tutto, perché i sanitari sono i primi occhi e le prime orecchie delle forze dell'ordine. Ecco, ci chiama Luigia, l'ascoltatrice Luigia, buongiorno. Buongiorno, io sono un'infermiera del 118 di Roma e volevo sottolineare una cosa, non so l'esperienza del mio collega qual è, però per la normativa italiana noi infermieri non possiamo fare diagnosi di morte. Ora, la maggior parte delle ambulanze che si trovano a Roma e provincia sono BLS, cioè sono ambulanze dove non c'è la presenza del medico che può appunto accertarsi sulla morte di un paziente. Per cui noi, quando arriviamo sulla scena di un delitto, a meno che il paziente non è decapitato, non ha uno stato avanzato di morte avanzata o carbonizzato, per noi il paziente è vivo e dobbiamo trattarlo come tale. Per cui paradossalmente, anche rispetto a un paziente impiccato, noi teoricamente lo dobbiamo togliere dalla corda e tentare comunque di rianimarlo. Per cui questo significa inquinare assolutamente praticamente lo scenario del delitto. Quindi mi sembra di aver capito, sì, signora, che il problema è che voi, se applicate il vostro protocollo professionale, che è quello di fare alcune operazioni su quel corpo, vivo o morto che sia, necessariamente create dei problemi a chi dopo dovrà stabilire il perché, il per come e il per quando. Certamente, perché se noi abbiamo una vittima magari accoltellata, e noi comunque dobbiamo sfilare il coltello, non sfilare il coltello, no, ma teoricamente lo dobbiamo caricare e portarlo via col coltello infilato, anche sì, per cui tutto questo crea veramente problemi, ma per questo lo dice la legislazione italiana, noi infermieri non possiamo fare diagnosi di morte. Grazie Luigia. Melog 2.0. Adesso noi abbiamo preso come campione del sangue mediante un'ampollina, lo verseremo in una zona della stanza e aspetteremo qualche secondo e nebulizzeremo con appunto il materiale. Quindi adesso siamo certi che la sostanza organica, in questo caso è proprio sangue animale, c'è, sul pavimento c'è. Quindi adesso cosa succederà? Adesso andremo a nebulizzare la zona e vedremo la fluorescenza e di conseguenza se ci sono o meno tracce ematiche. Il reagente sta già funzionando? Man mano che viene nebulizzato sembra un'impronta di scarpa. In questo caso siamo certi che c'è una traccia organica? Sì. Questo è un video che abbiamo preso questa mattina da YouTube, dove un giornalista si autoproduce comunque questo piccolo servizio con un investigatore privato, fa la prova del luminol a casa sua per far vedere come funziona questo reagente, con del sangue animale buttato per terra, nebulizza il luminol e mostra appunto questa sorta di luminescenza bluastra che dimostra che c'era il sangue. Questo dimostra che in fondo abbiamo tutti una sorta di appassionata frequentazione con gli strumenti che tendono a specializzare la zona del crimine. Parlammo noi qualche mese fa di kit che si vendono per le famiglie o per mariti sospettosi per nebulizzare le mutande del coniuge che si teme fedifrago e che darebbero subito visione di probabili tracce organiche fuori dal circolo coniugal familiare. Ecco, questo dimostra che siamo tutti grandi investigatori, siamo tutti medici legali, siamo tutti specializzati, come siamo tutti commissari tecnici, siamo tutti esperti di calcio e via dicendo. Ma devo fare una domanda a Marco Pellacani, che stava al telefono, infermiere del 118 e coautore del libro La gestione della scena del crimine. Quello che ha detto la sua collega rispetto al problema di dover intervenire o non dover intervenire di voi operatori del 118, ad aggiungere qualcosa? Sì, certo, no, giustamente se c'è un minimo dubbio che sia ci sia da fare qualcosa, dobbiamo intervenire, ma ci sono tutta una serie di piccoli accorgimenti banali, come se c'è da sciogliere il nodo in caso di impiccato, non cercare di sciogliere il nodo perché dal nodo possono risalire dal tuo. Quindi se trovate un impiccato cosa dovete fare? Andiamo all'esempio concreto. Vabbè, se l'impiccato, innanzitutto dipende se ha delle macchie prostatiche o meno, però nel caso che fosse ancora vivo si scioglie il nodo senza tagliare a circa 50 cm la corda dal nodo e poi dopo si incomincia una rianimazione. Questo è l'esempio nel caso dell'impiccato. Un'altra cosa importante è di proteggere le mani della vittima con dei semplicissimi sacchetti di carta, anche se questa è ancora viva, perché le mani sono le prime armi sia di difesa che di attacco. Infatti nel vostro libro ho visto una foto che non capivo come mai, di un cadavere di un ucciso, gli avete messo dei guanti di plastica. Dico, ma come mai questo si è ucciso? Sì, quello lì ha messo la scientifica dopo. La scientifica dopo, perché chiaramente se io mi difendo posso prendere residui di cute o capelli dell'aggressore e quindi possono estrapolare il DNA. Vedi, questo lo so anch'io perché ho visto i telefilm. Capisce quanto noi abbiamo ormai una imparaticcia maniera di leggere queste cose. Però andiamo avanti. Che in caso di ferita da taglio, mi ha impressionato, la signora ha detto che l'accoltellato va portato via con il coltello infilato, come appunto nei film dell'orrore. Esatto, se ancora vive una ferita penetrante il coltello va lasciato in sede perché potrebbe in qualche modo tamponare un'eventuale emorragia, quindi non va mai rimosso, quindi va bloccato lì dove lo si trova e si porta il paziente rapidamente in un ospedale, possibilmente con una sala operatoria, eccetera. Ecco, altri episodi invece, non so, ferite di arma da fuoco, ferite di cui non si capisce l'arma. La maggior parte dei delitti di cui si parla tanto in televisione sono delitti senza arma del delitto, in cui scompare sempre l'arma del delitto. Sì, esatto. Infatti una cosa che noi diciamo ai sanitari, ai medici, infermieri, ai soccorritori è quando si entra in qualche caso evento di non toccare nulla se non è necessario per le manovre sul paziente, sul ferito. A noi poi sanitari non importa più di tanto la dinamica dell'evento, noi siamo lì per salvare la vita sia dell'aggressore o che della vittima, quindi poi questo spetterà agli investigatori. Però se riusciamo una serie di piccoli accorgimenti a non inquinare la scena del crimine, questo non può che beneficiare insomma il sistema. Grazie Pellecani. Professor Gianmarco Cifaldi, criminologo che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, abbiamo messo sul piatto una situazione che mi sembra che sia centrale rispetto a quello che lei stava dicendo. Con tutta la buona volontà, con tutta la perizia, con tutte le tecniche un po' facenti parte della formazione professionale che ogni infermiere, un po' anche magari occhieggiata in televisione, si fa il possibile. Ma il vero problema per voi nasce proprio nel momento in cui arrivano gli infermieri prima della polizia. Sì, in effetti il problema è proprio quello di formare i primi attori dentro una scena del crimine, proprio per cristallizzare, come dicevo prima, tale situazione. Io, se posso, se mi consente... Sì, sì, no, sei qua per sentire cosa da aggiungere, certo, questa cosa qua. Non è così, gli altri stati non sono così avanti rispetto a noi. Noi abbiamo delle fantasie investigative che pochi altri investigatori hanno nel mondo. Questo ci dovrebbe fare orgoglio. Quando dice fantasie investigative, cosa significa? Significa che noi abbiamo un guizzo investigativo che pochi hanno. Non un'intuizione, ecco, diciamo. Sì, ma non ci dimentichiamo che la criminologia nasce in Italia con Cesare Lombroso. Quindi il primo proprio momento di crescita a livello internazionale è italiano, cioè Made in Italy. Ovviamente... Quindi il tanto denigrato Lombroso comunque ha portato degli elementi utili per le vostre indagini? Beh, Lombroso ovviamente è stato superato in tutta la fisionomica, i tratti somatici, insomma, è superato. Però non a caso in Italia nasce questo concetto di criminologia, questa nuova scienza che si apre un percorso autonomo è in Italia, nasce in Italia. È vero che in America abbiamo una serie di... questi protocolli che dicevo prima, che noi non abbiamo ancora al 100%, vediamo che a Milano abbiamo l'ispettore, il gabinetto scientifico opera più o meno in un modo, a Palermo in un altro modo, a Roma in un altro modo e a Modena in un altro modo. Eh beh, lei proprio fa parte della fantasia investigativa, che ognuno usa la sua fantasia. Però, come si vuol dire, la virtù è in mezzo, perché sì, possiamo dire che abbiamo questo vantaggio, però poi se non possiamo uniformare il meglio di ognuno, il giudice, è appunto l'altro momento nodale del processo, dell'investigazione, è proprio la magistratura che poi non ha gli elementi giusti e fanno gli errori, orrori. Allora, vediamo un attimo, perché se riesce a darci qualche elemento in più, un altro... ospite, un'altra delle persone che ci può dare istruzioni che siano certe su una materia in cui noi sembriamo di essere estremamente competenti proprio perché l'abbiamo orecchiata e occhieggiata tanto, poi in realtà vediamo che ci sono delle fattispecie molto precise che richiedono comunque studi e perizie che non appartengono al comune teleutente. Marco Strano, buongiorno. Buongiorno a tutti. È criminologo, psicologo, presidente dell'ICA, International Crime Analysis Investigation, che ha scritto anche lei recentemente un manuale di investigazione criminale. Vediamo se riesce, nei pochi minuti che ci separano appunto dalla fine della trasmissione, di darci quelli che potrebbero essere in teoria l'esatto protocollo da seguire sulla scena del crimine. Chi deve arrivare primo e cosa deve fare? Bella domanda. Innanzitutto arriva prima in base a quello che è successo. È chiaro che se c'è una scena del crimine dove c'è il rischio che ci sia ancora qualcuno in vita, i primi che arrivano sono quelli che devono dare i soccorsi, quindi operatori sanitari, perché comunque la vita umana ha la prevalenza poi sull'investigazione. Però dovrebbero avere anche loro un training sufficiente per sapere cosa devono fare? Ma allora, tendenzialmente cominciano ad averlo, nel senso anche noi come associazione stiamo organizzando dei corsi per il 118 e molti di loro poi si aggiornano, nel senso che hanno sensibilità. Il problema è che... Ma le telecamere è plausibile come accessorio all'infermiero, oppure parliamo di cose che è l'altra faccia della luna? La telecamera è in fronte per lavorare e filmare? Ma allora, se consideriamo che le strutture e i budget sono in crisi per tutte le realtà, quindi dobbiamo ragionare in questo modo qui. È spesso mancano i cerotti, mi sembra un po'. Sì, è sicuramente uno strumento utile, ci mancherebbe. Il problema è che queste persone operano in emergenza e delle volte riescono a salvare una vita in pochi minuti. A questo punto, insomma, dover fare una serie di cose potrebbe essere complicato, però sulla carta è sicuramente una cosa interessante. Beh, penso che fondamentalmente sia la loro preparazione, la formazione, quello che sia necessario. Ecco, però, passato passato questo primo elemento, è dato per scontato che hanno fatto nella miglior maniera possibile il loro lavoro, qual è il vero nodo da sciogliere, visto che la trasmissione sta finendo, ma secondo me l'argomento è interessante e merita assolutamente un seguito. Il primo nodo grosso da sciogliere. Fondamentale è questo: gli addetti ai lavori, vale a dire chi opera nella polizia scientifica, nei reparti scientifici dei carabinieri, hanno la competenza per inquinare il meno possibile. Il problema è che sulla scena ci arrivano anche altre persone che appartengono al mondo investigativo che non hanno questo tipo di preparazione. Quindi il nodo fondamentale è che tutti quelli che arrivano sulla scena, quindi compreso il singolo poliziotto, il singolo carabiniere, ma anche i magistrati, devono avere un minimo di competenze per evitare di inquinare, e questo penso sia l'obiettivo. l'obiettivo. O debba esserci una figura professionale super specializzata che comunque definisce sul luogo del crimine quelle che sono i modus operandi a ognuna di queste persone, che non necessariamente tutti i magistrati debbano sapere tutte le regole che occorrono quando ci si muove in un terreno così delicato. Ma io ringrazio anche Marco Strano, ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio gli ascoltatori che bramavano di dare un loro fattivo contributo, e visto che l'argomento vi interessa, vi prometto che prima o poi, ma forse prima, meglio prima che poi, ci torneremo per cercare di capire un po' meglio, in maniera seria e scientifica, quello che è probabilmente uno dei maggiori divertimenti delle serate televisive degli italiani. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.